fossi io, viene lento divagar una musica brutal, encendió nuestra pasión. Melog 2.0 di Gianluca Nicoletti. Leggo su Wikipedia, perché naturalmente più là non riesco ad arrivare con i miei limiti, che per la prima volta il DNA fu isolato da un biochimico svizzero e lo trovò dentro il pus di alcune bende chirurgiche usate dopo l'operazione. E pensate, da questa coagulo di schifezza viene fuori qualcosa che oggi segna profondamente la nostra coscienza. Tutti sappiamo di avere una sorta di tracciatore indelebile del nostro passaggio, la nostra esistenza, della storia che precede la nostra connotazione spazio-temporale. Il DNA è qualcosa che ci fa paura, ci spaventa. Io ho messo su Facebook una foto di me stesso di qualche decennio fa, in straordinaria somiglianza, sembriamo quasi fratelli gemelli, con una foto di mio nonno al tempo che aveva la mia stessa età, 30 anni fa. Facciamo paura, sembriamo la stessa persona. Se analizzo con la foto e la spezzetto, abbiamo le stesse orecchie, la stessa stempiatura, lo stesso sguardo, la stessa faccia fissa. Insomma, ciò che rende identiche il colpo d'occhio con le due immagini è naturalmente il nostro patrimonio genetico. Ma alla stessa maniera sappiamo che il DNA è una sorta di remora a compiere atti illeciti, se non bastasse la nostra tenuta etica, se non bastassero i nostri convincimenti. Laddove noi mettiamo mano e mettiamo qualcosa che è emesso dal nostro corpo, lasciamo una traccia che segna inequivocabilmente che lì siamo stati noi, siamo passati noi. Oggi la percezione del DNA è totale, non esiste delitto eccellente, non esiste fatto di cronaca, non esiste enigma giudiziario che non sia segnato comunque da questa parola ormai non più misteriosa. È apparso lucido e tranquillo e ha risposto alle domande dei magistrati. Un'ora e mezzo di interrogatorio in cui Luca Bianchini ha continuato a negare. Sono innocente, vi state sbagliando, ha detto. Voglio rifare il test del DNA alla presenza di un mio perito di fiducia. Bianchini quindi nega di essere l'autore dei 3 stupri di Roma, nega di essere quell'uomo ripreso in un garage romano nel tentativo di una violenza, nega e aggiunge: mi stanno rovinando la vita, se non mi crederanno mi ucciderò. Per gli investigatori è proprio la prova del DNA ad incastrarlo. Il suo profilo genetico, dice il capo della squadra mobile, ha una compatibilità massima con quello dei 3 stupri. È uno dei casi più recenti in cui uno stupratore viene inchiodato la sua colpevolezza per la prova del DNA, ma ci sono anche altri casi in cui in realtà il DNA al contrario serve a scagionare un colpevole. Sean Hodgson torna libero dopo 27 anni passati in cella da innocente. Hodgson aveva confessato l'omicidio e per questo era stato condannato all'ergastolo. La difesa ha però sostenuto che Hodgson sarebbe un bugiardo cronico e gli avvocati hanno chiesto la riapertura del caso. Così è stato e l'esame del DNA, che non esisteva ai tempi del processo, lo ha scagionato. On behalf of my brother, I would like to thank... Sean Hodgson è scagionato dal DNA dopo 25 anni che era stato processato e dichiarato colpevole. Allora il test non era conosciuto, il riconoscimento appunto della traccia genetica come prova di colpevolezza o motivo di scagionamento, oggi finalmente può essere libero. Ma anche nelle più tradizionali, popolari fiction televisive, come appunto i Cesaroni, emerge la parola del DNA, il concetto del DNA, in questo caso come una prova di riconoscimento di paternità. Allora sai che ti dico, tagliamo corto, tu ti prendi un bel digestivo, io mi riprendo mia figlia e siamo tutti contenti, d'accordo? Oh, tu m'hai stufato con sta storia, a me chi mo dice che sei il vero padre di Matilde? Guarda, è tutto molto più semplice di come tu possa pensare. Facciamo la prova del DNA. Scusate, c'è una toilette da queste parti? Quella porta là. Grazie, torno subito. Già su Facebook c'è chi mi suggerisce altre letture, altre versioni fantastiche, poetiche, immaginifiche rispetto al DNA. Mi dice Matteo, è interessante una visione che vuole che il DNA sia forse una sorta di tecnologia proveniente da un'altra civiltà. Questo è bello, è suggestivo pensarlo. Tutti i più profondi mistici dell'ufologia pensano che comunque il DNA è la traccia della vita che arriva sulla Terra chissà da quale altra civiltà e che insemina questo pianeta che era soltanto un coacervo di natura ribollente e lì innesta la vita. Poi naturalmente esistono un'infinità di altre convinzioni, altre teorie, atti di fede. Comunque è basilare che il DNA, che sia alla base della nostra esistenza, della nostra identità, sia ormai diventato un termine abbastanza, o perlomeno elaborato, l'accezione comune. Mi piacerebbe capire anche dal pubblico che ascolta questa mattina, in cui tracceremo i risultati scientifici, la storia del DNA inteso come appunto strumento di identità in battaglie legali, sul teatro del crimine, quanto l'uso e la percezione delle tracce legate al DNA possono aiutare a trovare il colpevole, quanto poi sia importante in un momento particolare in cui il Parlamento in Italia perlomeno ha appena approvato una legge sulla banca dati nazionali del DNA. Prima, presto, tardi, a seconda dei mezzi, della capacità di immissione dei dati, tutti avremo comunque, come abbiamo una nostra fotografia da qualche parte, come avevamo al tempo del servizio militare, le nostre impronte digitali, il nostro DNA segnato da qualche parte. Quindi ogni nostro passaggio comunque è rintracciabile, come se già non fosse sufficientemente rintracciabile attraverso le scie elettroniche che lascia il nostro telefonino, il nostro navigatore satellitare, il nostro passaggio attraverso le protesi attraverso cui ci colleghiamo ogni giorno. Ma quello che ci interessa questa mattina è appunto capire quale sia la controversa storia del DNA tra crimini, misteri e battaglie legali, che appunto il titolo di libro uscito in questi giorni per l'edizione Sironi di Alice Andreoli, Identità alla prova. Alice Andreoli, buongiorno. Buongiorno a voi. Ecco Alice, tu hai pensato di raccogliere da giornalista dati e informazioni per dimostrare quanto oggi sia realmente centrale anche nel nostro immaginario, di noi lettori di giornali, noi che seguiamo programmi televisivi, ascoltiamo la radio, questa scoperta del DNA e questa, soprattutto questa applicazione del DNA al teatro del crimine. Sì, diciamo, io ho deciso di raccontare questa storia che è la scoperta di la storia di una scoperta scientifica che ha cambiato il mondo, perché effettivamente noi tutti lo diamo per scontato, ma c'è stata una grandissima battaglia legale dietro all'arrivo del test DNA in tribunale, ma anche una battaglia scientifica, cioè la comunità scientifica si è spaccata in due. E però la storia del DNA è anche una grande storia di riscatto, è la scienza come mai prima al servizio della ricerca della verità, è una storia di molecole, ma una storia di ingegno, una storia di libertà, di riscatto, di giustizia, la più grande rivoluzione di sempre nella storia dell'investigazione criminale. Sì, anche perché è chiaro che cambia fortemente la percezione della giustizia, giustizia che è affidata appunto al parere di un organismo giudicante che si basa su leggi, su regolamenti, su analisi delle prove, a questo punto a qualcosa che potrebbe anche sconvolgere tutti i convincimenti, tutti i parametri finora usati. Abbiamo sentito uno stralcio della storia del condannato dopo 25 anni, entra qualcosa che cambia assolutamente il criterio di giudizio. Questo non mi sembra cosa da poco. Beh, diciamo che in America il test DNA ha stravolto dalle fondamenta il sistema della giustizia. Questa associazione di avvocati americani che gratuitamente prende in esame questi casi di giustizia ingiusta, si chiama Innocence Project, è nata nel 92, ha scagionato 244 persone che erano in galera per un crimine che non avevano mai commesso. Di queste 17 erano state condannate alla pena di morte. In totale si calcola abbiano fatto oltre 3.000 anni di carcere e questo è stato grazie al test del DNA. Viene da pensare che sono tutte persone giudicate, condannate, che scontano la pena negli ultimi 20 anni, perché da un certo punto in poi, quando il test del DNA è diventato elemento di prova, non esiste più questa fattispecie. È vero e non è vero, nel senso che di questi 244, l'associazione nasce nel 92, nei primi 12 anni sono stati scagionati i primi 100, dal 2002 al 2007 gli altri 100. e dal 2007 al 2009 sono passati 2 anni, sono altri 50, quindi paradossalmente sta aumentando. Questo perché sì, certo, riguarda dei casi magari in cui il test del DNA non esisteva, ma non solo, riguarda anche degli errori giudiziari. Di questi errori giudiziari il 50%, quindi la metà, sono dovuti a prove scientifiche fasulle, cioè senza spazzatura. Non stiamo parlando di DNA, che è la prova più solida e più certa, anche se non sempre infallibile. E poi forse spiegheremo perché, ma stiamo parlando di prove che spesso, no? Noi guardiamo CSI, pensiamo che la scienza sia una certezza, che le scienze forensi siano una certezza. In realtà c'è poca scienza nelle scienze forensi. Diciamo, c'è un margine di errore molto ampio che spesso non viene tenuto in considerazione quando l'analista, lo scienziato analizza la prova, dice, penso onestamente, chi amministra la giustizia, guarda che il margine d'errore è molto ampio, ma molte volte non avendoci altro per le mani o avendoci magari dei difetti di intelligence proprio nella parte, ci si appoggia a quella prova e sembra che sia risolutiva. Sì, diciamo che la prova del DNA è un conto, le altre prove scientifiche sono molto meno certe. E moltissime di queste persone condannate ingiustamente sono andate in galera per l'analisi pilifera, per esempio, non l'analisi del DNA sui capelli, ma l'analisi delle caratteristiche del capello. È stato dimostrato che si può commettere un errore nel 67% dei casi, quindi è più indicato tirare una moneta, l'errore è inseriore. Quindi si fa prima, è molto chiaro, si fa prima a considerare il colpo d'occhio a questo punto, se il margine d'errore è così ampio. Introduco il secondo ospite, che è un personaggio molto noto, è colonnello Luciano Garofano, comandante del RIS, Reparto Investigazioni Scientifiche di Parma, che ha fatto la prefazione al libro di Alice Andreoli e ha scritto da poco Il processo imperfetto, la verità sul caso di Cogni e Perrizzoli. Comandante Garofano, buongiorno. Buongiorno a voi. È proprio vero che molte volte ci lasciamo trascinare dalle emozioni della fiction e non consideriamo che in realtà la prova scientifica nella scena del crimine è da tenere in considerazione, sì, ma con dei margini d'errore molto ampi? Beh, insomma, le fiction indubbiamente ci hanno trasferito una realtà che è molto finzione, poi poco veritiera, perché sembra tutto semplice, sembra tutto facilmente intuibile, poi si arriva in laboratorio, si fanno le analisi e si scopre sempre il colpevole. Non è così. Il teatro di un delitto è molto più complesso e le analisi vanno fatte con grande scrupolosità, con grande serietà. Però devo dire, è vero, la scienza comunque non è infallibile in senso assoluto e ha un margine d'errore del quale bisogna tener conto. Però devo anche dire, mi fa piacere che la dottoressa Andreoli l'abbia sottolineato, che la scienza ha dato sicuramente un contributo al miglioramento delle capacità investigative. Certo, non è la panacea, non è che noi risolviamo tutto con la scienza, però facendo quel parallelo che tra l'altro ieri è comparso anche sul Corriere della Sera e che si riferisce a Sherlock Holmes, in effetti così come il medico oggi ha maggiori capacità di arrivare a diagnosi più certe perché ha strumenti scientifici e accertamenti diagnostici scientifici, così l'investigatore può arrivare a individuare il colpevole, a scagionare un innocente, come ci diceva la dottoressa Andreoli con The Innocence Project, perché ha la scienza. Il problema qual è? Che io scrivo nella mia introduzione nel libro di Cogne. Il problema è che soprattutto in Italia noi non sempre ci imbattiamo in esperti che possano promuovere una vera scienza. Cioè non c'è un sistema A che formi bene questi esperti, B che possa controllarne le capacità. Allora assistiamo spesso a perizie, superperizie e quant'altro che sono redatte da persone che non sempre interpretano quelle conoscenze scientifiche che un caso delittuoso invece richiederebbe per la sua delicatezza. Lei, comandante Garofano, ha scritto un libro sul caso di Cogne. Eravamo abituati a vedere questo caso sviscerato in televisione, dai plastici alle controprove, agli incidenti probatori, alle fiction sulla scena del delitto. È riuscito a riportarlo in termini di analisi puramente scientifica, tutto quello che è stato detto e scritto su Cogne, ad esempio? Ma Assolutamente sì, perché intanto io ho scritto questo libro perché è l'unico che racconta dal 30 gennaio 2002, giorno dell'omicidio in poi, le vicende fino al processo in Cassazione. Ma poi ho raccontato tutte le cose che non si conoscevano, tutti i tentativi di depistaggio, di confusione, tutto ciò che è ruotato poi intorno all'indagine scientifica che, chi lo leggerà vedrà, si è basata su consulenti della difesa che non avevano quella preparazione adeguata per una tecnica che è quella che poi è stata importante nel definire la responsabilità della signora Franzoni, che è la BPA. La BPA è la Bloodstain Pattern Analysis, cioè lo studio della distribuzione delle macchie di sangue. Noi eravamo andati negli Stati Uniti a studiarla, l'avevamo già applicata, ci siamo confrontati con degli esperti che non l'avevano mai, esperti di altri settori che non l'avevano mai applicata, non avevano mai studiato queste cose. Questo accade nel nostro paese ed è veramente grave. Noi ci interrompiamo un attimo, Colonnello Garofano, e chiedo anche agli ascoltatori di dare il loro contributo, visto che tutti sarete esperti di letture televisive o quotidiane rispetto ai fatti di cronaca in cui questo termine DNA esce in maniera molto ricorrente. Cercheremo in seconda parte della trasmissione di dimostrare quando è stata fallace, erronea, un'attribuzione che appariva inappugnabile dal punto di vista scientifico e quanto invece il test del DNA ha contribuito a trovare la verità. Melog 2.0 800 24 0024, anche se è difficile portare contributi personali, sforzatevi. Oggi stiamo parlando di DNA, soprattutto di uso del DNA come strumento di aiuto o di certezza nel caso di un processo, di un delitto, di un caso giudiziario che altrimenti non troverebbe soluzione. Lo facciamo parlando del libro di Alice Andreoli, Identità alla prova, la controversa storia del DNA tra crimini, misteri e battaglie legali, edizioni Sironi. Alice Andreoli, esistono dei casi controversi il cui DNA in particolare ha creato, anche invece che uno strumento di chiarimento, uno strumento di confusione? Nel tuo libro ho visto soprattutto un caso, mi sembra in Germania, in cui c'era un DNA scoperto e poi non apparteneva a nessun altro che a un operatore che stava lì in zona. Sì, per 16 anni gli investigatori tedeschi hanno cercato un serial killer donna, lo chiamavano il fantasma di Heilbronn. Era il DNA di questo serial killer donna era su 6 diverse scene del crimine. E era suggestiva come idea, era meravigliosa. Certo, soprattutto perché una donna è... Cosa succede? Questo è molto recente, è stato scoperto a marzo di quest'anno, del 2009. Succede questo, che si scopre che questo DNA corrisponde sia a una donna, ma questa donna non c'entra nulla con questi omicidi, è un tecnico di laboratorio. Perché? Perché il suo DNA finisce, per un problema di contaminazione, dentro i kit della polizia. Quindi la polizia va sulla scena del crimine con questo kit, prende il DNA, analizza il DNA è del tecnico di laboratorio. Questo per far capire che il test non è infallibile. In America ci sono stati dei casi clamorosi, dei grandissimi scandali di tecnici di laboratorio inesperti e chiaramente non qualificati, che disseminano il loro DNA o che hanno testimoniato quando c'era una prova di esclusione, si chiama, cioè che il DNA escludeva la colpevolezza di un imputato. È successo per esempio un grosso scandalo, il caso Sutton, Josiah Sutton, un giovane ragazzo afroamericano viene arrestato per uno stupro, lui attende con ansia il test del DNA perché spera, sa che lo scagionerà. Convinto di essere innocente, sicuro di essere innocente. È innocente. E il test, invece, il suo avvocato arriva e dice: brutte notizie, il test, stando al DNA sei tu. Ebbene, quel test non era così, insomma, sono andati un gruppo di giornalisti, questo accadeva a Houston, è stato appunto lo scandalo della polizia di Houston, un gruppo di giornalisti fa un'indagine e scopre che negli appunti di laboratorio i risultati erano ben diversi, il test escludeva la colpevolezza di questo imputato. Quindi il problema qual è? Il test del DNA è un test formidabile. Però è una sorta di macchina della verità, però come ogni macchina, se è un'invenzione umana, l'uomo è infallibile, quindi non può questa prova essere infallibile. Anche perché è abbastanza semplice lasciare il proprio DNA appiccicato ovunque noi passiamo. Sì, c'è uno studio che hanno fatto che usando oggetti per lo strangolamento, per esempio fili del telefono, sciarpe, e si è visto che basta toccarli, insomma, per lasciare circa 40.000 cellule. Quindi paradossalmente proprio la raffinatezza e l'efficacia di questo test può diventare persino pericoloso, perché io potrei lasciare il mio DNA su una scena del crimine e non avere un alibi. Quindi bisogna fare molta attenzione anche su questo. Ecco, su questo noi avevamo già sentito in un'altra trasmissione, lo richiamiamo oggi perché mi sembra che l'argomento sia complementare a quello che stiamo dicendo, il professor Gianmarco Cifaldi. Professore, buongiorno. Buongiorno a voi, buongiorno a tutti quanti gli spettatori, buongiorno anche alla dottoressa che ha scritto il libro e al colonnello Garofano, che ho avuto il piacere di avere una sintetica, un simpatico confronto ultimamente ad Ancona. Ecco, lei ha scritto un volume che avevamo già trattato in questa missione, La gestione della scena del crimine, edizioni Atena. Quello che ha appena detto appunto Alice Andreoli riporta l'argomento a quanto ci eravamo detti qualche tempo fa. È molto difficile mantenere inalterata la scena del crimine da tracce che possano inquinare la prova poi del DNA. Cosa possiamo aggiungere? Guardi, proprio nel libro in cui ho scritto alcuni passaggi per far capire quanto sia delicato poi risalire e non essere... non inquinare la scena del crimine, bisogna cristallizzarla il più possibile. Proprio nel libro io metto alcuni rischi degli operatori sanitari che intervengono. Mi ricordo che lei ci dicevamo che i primi inquinatori erano proprio gli operatori sanitari che arrivano per portare via i feriti o i morti o le vittime appunto del crimine. Infatti proprio quello, noi stiamo cercando con vari strumenti, corsi di formazione a professionalizzare gli operatori sociosanitari nella scena del crimine, con alcune accortezze semplici, non costosissime, e dotarli di forme anche di controllo, con delle telecamere, macchine fotografiche, per poter agire e cristallizzare il più possibile la scena del crimine. Ecco, comandante Luciano Garofano, colonnello Luciano Garofano, comandante dei RIS di Parma, risulta e concorda lei con il professor Cifaldi sul fatto che occorrerebbe fare un training un pochino più accurato degli elementi che poi passano attraverso la scena del crimine per essere più certi, più sicuri e lavorare meglio? Certo, risponderei a tutte e due, anche alla dottoressa Andreoli. È vero, il pericolo di contaminazione c'è, per questo noi, almeno in Italia, mutuando l'esperienza anche di altri paesi, ci stiamo certificando, cioè stiamo dando ai nostri operatori quella garanzia di standardizzazione che ci pone al riparo degli errori. Poi è chiaro che la prova del DNA va sempre coniugata con le indagini tradizionali, quindi il pericolo che il mio DNA sia trovato lì e che questo porti ad una incriminazione, insomma, è veramente molto, molto lontano. E poi comunque noi analizziamo anche i DNA di chi opera, insomma c'è tutta una attenta analisi per evitare quello che appunto è successo in Germania. Circa la scena del crimine, ma assolutamente sì, io ormai dico, lo predico da anni e mi fa piacere che il professor Cifaldi l'abbia ricordato, perché la scena del crimine ci arriviamo noi, ma ci possono andare il 118, la polizia locale, ed è lì che noi ci giochiamo il successo di un'indagine. Credo che il paese debba investire molto in corsi di formazione e di aggiornamento per far sì che la scena del crimine, a prescindere da chi vi opera, anche appunto il personale sanitario, però sia quel luogo dove uno abbia la competenza e la conoscenza per proteggere quelle tracce, documentarle il prima possibile e poi consentire che siano analizzate. Quindi ancora molto dobbiamo fare, però voglio anche dire che non è che siamo l'ultimo paese, perché questi errori purtroppo accadono. Abbiamo scoperto negli ultimi anni che le tecniche scientifiche si sono evolute moltissimo, quindi ecco, bisogna prendere un po' il giusto passo, però ci stiamo muovendo verso quella direzione assolutamente. Ecco, su questa banca dati nazionale del DNA, di cui si parla anche in maniera controversa, c'è chi considera possa essere un attentato anche alla propria privatezza, o perlomeno cerca di salvaguardare il più possibile la propria privatezza. Lei trova che sia uno strumento ormai necessario e indispensabile, dato la rilevanza che ha l'esame del DNA in una serie lunghissima di questioni? Ma Assolutamente sì, se lei pensa che la banca dati britannica, che è la prima del mondo, ha dimostrato che il tasso di scoperta dei reati è passato dal 26% quando non c'era né DNA né banca dati al 60%, questo ci dà la dimostrazione che è non solo utile, ma che siamo anche qui in forte ritardo. D'altra parte volevo dire, il DNA in Italia è servito anche a scagionare degli innocenti, mi riferisco alla violenza sessuale della Caffarella, dove c'erano due cittadini rumeni che erano stati addirittura individuati, uno aveva addirittura confessato e c'era stato il riconoscimento della vittima, grazie al santo DNA, dico io, due cittadini sono stati scagionati, analogamente a quello che è successo negli Stati Uniti. Quindi la banca dati è qualcosa di importante. Direi di essere molto più sereno sui rischi di uso illegale, perché sia per quanto riguarda i campioni, no? I campioni di saliva che adesso andremo a raccogliere, sia per quanto riguarda i risultati, ci sono sistemi di tracciabilità molto più infallibili rispetto a quello che lei giustamente diceva sul traffico telefonico o sulle intercettazioni. Senta, ma colonnello, cos'è che impedisce, faccio una domanda apparentemente potrebbe sembrare stupida, che al momento della nascita, come ci prendono il gruppo sanguigno, ci traccino anche il DNA? Così. Niente, direi che... Perché non si fa? Vabbè, perché come al solito bisogna un po' allontanare gli spettri. Siccome credo che anche molti nel mondo, anche in Italia, un po' hanno parlato a sproposito sui rischi della invadenza della nostra privacy, io credo che, meno male che il Parlamento ha appunto approvato questa legge, partiamo, vedremo che i risultati positivi sono assolutamente enormi e che non c'è... Ma la legge cosa contempla, cosa prevede questa legge al momento? No, la legge è molto cauta perché ha risentito un po' anche di un compromesso tra le varie legislazioni e prevede questo, la tipizzazione, cioè l'analisi di tutti i detenuti, quindi il DNA di tutti i detenuti e poi l'analisi di tutti coloro che saranno sospettati o indagati per un reato per il quale la pena prevede nel minimo la pena. Però vede, colonnello, associandola soltanto al crimine è sì. Quasi che sembra quasi una stigmata di colpevolezza o no. Di appartenenza a una stirpe di criminali. Se no. Dicessi tutti i bambini devono avere la prova del DNA, dice ma mica sono dei potenziali criminali, risponderebbero le brave mamme d'Italia. Intanto noi non consideriamo che... No, ma io sarei d'accordo, guarda, io sarei assieme all'analisi del sangue, una serie di test importanti per la salute, metterei anche il DNA a questo punto. Ma infatti perché con quelle premesse che le dicevo di tracciabilità, cioè di sistemi che evitano qualsiasi manipolazione, ci sono, assolutamente ci sono e sono ipersicuri, noi potremmo, perché i reati sono seriati, i furti, le rapine, le violenze sessuali purtroppo si ripetono, la stessa persona che fa più reati, allora avremmo nel tempo un patrimonio che ci consentirebbe di avere dati che ci permettono di trovare la soluzione di un crimine laddove l'indagine tradizionale invece fallisce, perché non sempre no? Si può arrivare ad una soluzione di questo genere. Quindi però è bene che partiamo in maniera così cauta, che ci abituiamo a questa banca dati del DNA e che poi magari, come hanno fatto negli altri paesi, si possa espanderla dopo aver capito che questi rischi per la privacy non ci sono. Un'ultima cosa, la banca dati non serve soltanto a trovare i colpevoli, a scagionare gli innocenti, ma per le persone scomparse. Negli Stati Uniti adesso moltissimi genitori che erano anche loro un po' scettici su questa ipotetica manipolazione del DNA, genitori di persone scomparse, hanno cominciato a dare spontaneamente alla banca dati americana il loro DNA e purtroppo o per fortuna stanno riconoscendo i resti dei propri cari. Quindi noi abbiamo tantissime persone scomparse nel nostro paese e quindi la banca dati servirebbe anche a risolvere tragedie di questo Grazie genere. Grazie colonnello Luciano Garofalo. Riprendiamo a parlare di DNA e facciamo un piccolo cambio di rotta, perché siamo stati stimolati da quanto è stato detto poco fa dal colonnello Luciano Garofano riguardo a questa banca dati nazionale del DNA. Io ho ipotizzato che sarebbe interessante, lo troverei utile, non troverei nessun tipo di remora dal mio punto di vista, naturalmente, ma su questo mi piacerebbe sentire il parere anche degli ascoltatori all'800240024 sul fatto che alla nascita, come viene preso il nostro gruppo sanguigno, una serie di altri dati anagrafici rispetto al nostro stato di salute, il peso, le misure e via dicendo, e fosse preso anche il DNA. Sarebbe più semplice per tutti avercelo attaccato sempre al collo, come ci abbiamo molte volte il gruppo sanguigno, più semplice, più utile per una serie di ragioni, alcune delle quali potrebbe e dircela anche l'avvocato Cinzia Petitti. Avvocato, buongiorno. Buongiorno a lei. Lei è direttore della rivista online Diritto e Famiglia, esperta in diritto di famiglia e componente della Commissione Minore e Famiglia presso il Consiglio dell'Ordine di Bari. Ecco, riguardo a il DNA come elemento utile nel ricostruire anche dei legami di parentela a volte non così chiari o non così precisi o non così certi, lo troverebbe interessante e utile che ci fosse una banca dati diffusa e aperta sul DNA di ognuno di noi? Beh, sicuramente sarebbe molto utile, probabilmente bisognerebbe anche guardare un po' quelli che sono i costi per lo Stato di questo. Ecco, quanto tipo costa di fare un esame del DNA? Una volta era molto costoso, ultimamente diciamo che si sono assestati i prezzi, parliamo così di prezzi, sui 800-900 euro, chiaramente io posso parlare per il sud, su Bari, quello è l'indicativo costo che i consulenti tecnici d'ufficio chiedono. Certo, se ci fosse una banca dati col DNA già prelevato, già fatto, probabilmente i costi potrebbero essere un po' inferiori, anche se comunque tutto il lavoro di esame sulle caratteristiche genetiche tra padre, figlio e compatibilità comunque dovrebbe essere fatto, il costo ci sarebbe lo stesso. Ovviamente nell'ambito civile rispetto al penale ormai il DNA dà la certezza al 99,99%. E per cosa si usa? Per un riconoscimento di paternità? La dichiarazione giudiziale di paternità in particolare, e questa è stata una grandissima conquista, perché addirittura dopo diciamo il DNA dell'84 che c'è, se ne parla, sono state fatte le prime indagini, ma nella metà degli anni 90 diciamo che ha assunto una maggiore certezza, però in ambito giudiziario c'era una certa reticenza nell'utilizzare poi la prova del DNA. Si chiedeva prima di provare la relazione con i testimoni, prove documentali, cosa anche un po' impossibile, era una probazione diabolica provare il rapporto diciamo in sé del concepimento. Con il DNA invece diciamo che già nel... Beh sì, a meno che uno non si è fatto un film è un po' difficile. È difficile, poi bisogna vedere se poteva essere utilizzato o meno in giudizio, private eccetera. Diciamo che intorno al 2004 la Cassazione si è espressa dicendo che la prova regina è la prova prima che si può chiedere anche alla prima udienza istruttoria il DNA. Ma ci vuole sempre il consenso della persona per fare questo esame? Allora, senta, certo, è come in ambito penale ci vuole il consenso, è logico che la persona non può essere coattivamente presa e esposta a fare le analisi, però se dovesse rifiutarsi è logico che il giudice ne trae un convincimento, e se la motivazione, il motivo per il quale non si è sottoposto, non è valida, il giudice considera quello come una prova. Senta, avvocato, di solito se ne legge sui giornali di questa prova del DNA per il riconoscimento, disconoscimento di paternità, sì, solo con personaggi dello spettacolo, della finanza, del cinema, ma lei tratta anche casi di persone con comuni occupazioni? No? Certo. La volontà di sapere la verità biologica sulla propria origine non ha diciamo status neanche economico. Si fa prevalentemente diciamo la verità anche per motivi economici, però... Soprattutto ecco, per un riconoscimento di successioni. Sì, mi è capitato di curare casi anche di persone che magari avevano avuto una vita felice e anche ricca economicamente da parte del padre putativo, che è arrivato a una certa età, anche a 40 anni, vogliono sapere chi è il vero padre, quindi fanno l'azione di disconoscimento e poi il riconoscimento nei confronti. Anche perché le statistiche parlano di una percentuale abbastanza alta di figli in ambito del matrimonio che in realtà non appartengono a un reale rapporto concluso fra i genitori ufficiali, ecco. Infatti si parlava, mi sembra, nella sua precedente trasmissione, sì, di una percentuale abbastanza alta di questi casi. Certo, quindi è un segnatore di adulterio anche. Diciamo di sì. Beh, le cause stanno aumentando. In realtà prima forse erano più scoraggiati questi tipi di cause, data la lunghezza dei processi, perché bisognava fare, per esempio, nel giudizio di dichiarazione giudiziale, bisognava fare una prima fase di ammissibilità in cui uno con prove varie doveva dimostrare la presunta relazione e poi si faceva il giudizio vero e proprio. Quindi durava 10 anni, abbiamo avuto casi in Italia eclatanti. Adesso invece diciamo la verità che dopo la prima udienza, arrivato all'udienza istruttoria, uno chiede direttamente il DNA e poi il giudice stesso che convoca la parte dice: se dovesse essere favorevole il DNA, abbandonate la causa, fate il riconoscimento volontario e chi si è visto, oppure ovviamente abbandonate il giudizio se non è quello il padre effettivo del minore o del maggiorenne che inizia la causa. Ecco, volevo sentire un attimo, visto che siamo vicini alla conclusione, Alice Andreoli, che è l'autrice del libro, lo ricordo, Identità della prova, controversa storia del DNA, tra crimini, misteri e battaglie legali. A proposito di quello che diceva l'avvocato, scusa se ti interrompo, c'è uno studio recentissimo di quest'anno, inglese, di uno dei collaboratori dello scopritore del test, che dice i figli illegittimi, tra virgolette, cioè che sì, non sono figli, sono 1 su 25. Beh, mi sembra un buon numero. Senti Alice, visto che tu parli anche di misteri, c'è qualche mistero di cui si è molto parlato, legato proprio alla prova del DNA? Mi viene in mente il fatto delle tante Madonne, santi sanguinanti. Sì. In questo caso il DNA è servito a qualcosa? Luciano Garofano diceva benissimo la necessità di questa banca dati. Poi lui è stato uno dei protagonisti della storia del test del DNA in Italia, ma anche del... Sì, ma non sviare, volevo sapere, il DNA sulla Madonna Civitavecchia. È stato fatto. Sì, lui sa bene che in Italia non esisteva sino a giugno scorso una banca dati nazionale del DNA. Perché? Perché nel 95 a Civitavecchia c'è una Madonnina che piange sangue. E succede questo, insomma, la polizia va, fa delle indagini, estrae del DNA da questo sangue e scopre che è DNA umano, ma c'è il cromosoma Y, quindi è un DNA maschile. È un sangue maschile, sì, mi ricordo. Il giudice per le indagini preliminari chiede, accoglie la richiesta del pubblico ministero e ordina un incidente probatorio, quindi chiede di sottoporre la famiglia Gregori, proprietaria della Madonnina, al test del DNA e loro si rifiutano per presunte violazioni della privacy. A intervenire sarà la Corte Costituzionale, chiamata proprio a esprimersi sulla legittimità di imporre un prelievo di sangue. La sentenza arriva nel 96 ed è una sentenza che farà giurisprudenza, darà ragione ai Gregori, e questo è il motivo per cui in Italia... Cioè il sangue non era il loro, è un sangue maschile o non era del Gregori? Ah no, questo non è mai stato accertato, non si sa, perché i Gregori sono appunto rifiutati. Però hanno il diritto di dire il nostro sangue non lo confrontiamo con quello della Madonna. Sì, la Corte Costituzionale dice il codice di procedura penale è vago sulla discrezionalità del giudice di intromettersi sulla privacy di un cittadino, e questo problema è stato risolto solamente quest'anno, insomma, parliamo di un fatto che accadeva nel 95 e appunto il colonnello Garofano lo sa bene perché anche lui si è trovato con questo problema. Parliamo di un test che già, come diceva l'avvocato molto bene, cioè il test diventa certo a metà degli anni 90, però già nel 92, grazie al test del DNA, erano stati arrestati gli esecutori materiali, per esempio, della strage di Capaci, dove è stato ucciso il giudice Falcone, quindi un test già... Quindi diciamo, per le vicende umane il DNA è una prova di certezza, per le vicende più che umane ancora rimane un ampio margine di dubbio sulla attendibilità del DNA per provare i miracoli. A domani! Lasciate un messaggio alla segreteria telefonica di Melog 828 1111. Melog va in replica questa sera alle 22. Melog 2.0.